Sotto tiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Cari ascoltatori, quante volte avremmo parlato in questo spazio di beni sequestrati e confiscati alle mafie e del loro uso distorto e socialmente pericoloso? Tante, ma il fatto è che non basta mai, anche perché purtroppo la realtà supera la fantasia. Sentite questa, alcuni giorni fa la figlia e il genero di uno dei capi storici di Cosa Nostra, Giuseppe Madonia, condannato all'ergastolo per la strage di Capaci, ora in regime di 41 bis, sono stati denunciati dai carabinieri in quanto avrebbero trascorso, anche con altri parenti, la scorsa estate nella lussuosa villa di famiglia sul litorale di Santa Croce e Camerina, in provincia di Ragusa. Nonostante l'immobile fosse stato già confiscato e trasferito nel patrimonio